Chiede ai partiti una riduzione dei finanziamenti e sulla legge elettorale dice si è attesa, ma ancora non ci sono proposte. Berlusconi in aula a Milano per il processo Ruby, arresti e perquisizioni per gli scontri del 15 ottobre a Roma. Buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Paglierini. Iniziamo con una notizia di pochi secondi fa. È stato arrestato dalla polizia il pirata della strada che ieri ha travolto a Roma un ragazzino di 12 anni, ora in gravissime condizioni. Si tratta di un 37enne rintracciato a casa della convivente. Alcuni testimoni ieri dopo l'investimento avevano visto una Opel Agila fuggire e avevano preso parte dei numeri della targa. Notizia appunto di pochi secondi fa. Adesso parliamo del differenziale BTP Bund che è ancora in rialzo, le borse sono in altalena e come dicevamo nei titoli l'accordo Eni Enel sul gas spinge però Milano, ci aggiorna sugli ultimi risultati di borsa Deborah Rosciani in diretta anche oggi dal Salone del Risparmio. Buongiorno Deborah. Sì, buongiorno, eccoci qua. Allora, come avete giustamente definito poco fa, la seduta di borsa è stata piuttosto nervosa perché la mattinata è stata incerta, il mercato ha guardato ancora una volta il differenziale di rendimento fra titoli italiani e tedeschi risalito a 400 punti base. C'è attenzione sul mercato obbligazionario perché da giorni abbiamo riacceso i riflettori sulla Spagna, ma ieri anche sulla Francia e sull'Olanda per il rischio che possano perdere il loro rating attuale. Poi la giornata è girata in positivo con maniera più decisa dopo l'IFO tedesco, l'indice di fiducia delle imprese tedesche, e adesso abbiamo il rialzo di un punto sulla borsa tedesca, Parigi più 0,5, Madrid più 1,50, Milano più 0,88. 8%, Enel, lo dicevate, miglior titolo di Milano più 2,66% insieme a Telecom e la Popolare dell'Emilia Romagna. Le banche, nonostante lo spread, stanno andando tutte mediamente bene. Il peggior titolo è Finmeccanica, perde il 3%, mentre l'euro sul dollaro quota 1,31,90. E direi che per ora da Milano, dal Salone del Risparmio, è tutto. Grazie Deborah, e come dicevamo insomma l'accordo Eni Enel sta spingendo i titoli in borsa, vi spieghiamo di che cosa si tratta. Per la prima volta nella loro storia le due società Eni ed Enel hanno avviato insieme la produzione di idrocarburi in Russia, in Siberia nord-occidentale. Enel non aveva mai prodotto prima direttamente gas. Tutto ciò accade nel giorno delle manifestazioni della CGIL, in particolare quella di Roma. Ci aggiorna Vincenzo Miglietta in diretta dalla Capitale. Buongiorno Vincenzo. Sì, buongiorno. La riforma del lavoro è incardinata nel suo iter parlamentare al Senato. La promessa delle forze politiche è quella di intervenire con ulteriori modifiche. Le diverse espressioni del mondo sindacale, tuttavia scendendo in piazza oggi e nelle prossime mobilitazioni, chiedono un cambio di rotta più repentino. Dalla CGIL la Camusso assicura che la sua confederazione non abbassa la guardia. Continuiamo a lavorare per preparare lo sciopero generale. Che faremo? Conferma il leader della CGIL. Sentiamo. E vorremmo innanzitutto dire al governo che questo paese c'ha un bisogno, e il bisogno che ha è quello del lavoro, che si comincino a dare risposte concrete a tutti quei lavoratori e quelle lavoratrici che temono per il loro posto di lavoro, a tutti quelli che sanno che si potrebbe ricominciare a costruire lavoro attraverso le bonifiche piuttosto che gli investimenti, dare lavoro a tutti quei giovani a cui hanno promesso che sarebbero intervenuti contro la precarietà, che gli avrebbero dato una pensione, giovani del nostro paese che da mesi vengono strumentalizzati da questo governo. Il mondo sindacale punta più in generale il dito sulle incertezze del governo, sulla vicenda poi rientrata dell'esenzione dai ticket per i disoccupati e sulla vicenda degli esodati. Di lavoro parla intanto anche il Presidente del Senato, confido sul fatto, dice Schifani, che la riforma del lavoro possa dare risposta agli auspici delle imprese di poter assumere con una migliore flessibilità in entrata. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Oltre alla manifestazione della CGIL, Roma è stata bloccata anche dallo sciopero nel trasporto pubblico locale, sciopero che coinvolge altre città tranne Milano. Torino, Bologna e soprattutto Roma, queste le città dove si stanno registrando i più forti disagi per lo sciopero del trasporto pubblico locale. L'Orsa ha infatti proclamato uno stop nazionale di 24 ore, cui si aggiunge in queste città la protesta della CGIL nell'ambito del pacchetto di scioperi regionali contro la riforma del mercato del lavoro. E nella capitale traffico in tilt, ferma anche la metropolitana e collegamenti per Fiumicino. E a complicare le cose è anche la pioggia. Due ore sto aspettando e non passa mai. Devo andare al lavoro? Sì, oggi lavoro. C'è anche l'appuntamento con la la dottoressa per la bimba alle 4, non so come devo fare adesso. Sto aspettando, sì, da tre quarti d'ora. Sì, ho avuto problemi perché sono andato alla metropolitana e l'ho trovata chiusa. Ho cercato di prendere l'autobus, ma non passavano. Non abbiamo preso niente, tutto a piedi. Devo raggiungere un ufficio, non ci sono andato più, io vengo da Nettuno. Aspetto, che devo fare? Adesso provo a vedere se passa l'autobus, se no me ne rinuncio ad andare. Serrata revocata invece a Milano per favorire il Salone del Mobile. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore. Ora la politica. Il presidente del Senato, Renato Schifani, sollecita il Parlamento su due dei temi di maggiore attualità: finanziamento ai partiti e riforma della legge elettorale. In diretta da Roma, Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno, proprio così. Il Presidente del Senato sprona i partiti e la politica. Intanto interviene nel dibattito in corso nel centrodestra sulla nuova formazione politica lanciata da Pisano e Dini oltre il PDL. Per Schifani le discussioni interne ai partiti sono elementi di democrazia e quindi non lo stupiscono. L'importante però è che non frenino la politica e i provvedimenti attesi come le riforme e gli interventi strutturali del governo. Andiamo poi alla riforma della legge elettorale. Il Presidente del Senato è pronto, ma dice se ne parla tanto e non vedo proposte. Schifani poi auspica che si taglino i fondi per il finanziamento pubblico ai partiti perché l'antipolitica è un danno per tutti, indebolisce i pilastri della nostra democrazia. Intanto sulla proposta di Pisano e Dini il PDL non sta a guardare, il segretario Angelino Alfano promette novità e cambiamenti nella politica italiana. Ricordiamo ieri la proposta di Pisano, quella di guardare oltre gli attuali partiti politici e magari imbarcare alcuni dei ministri del governo tecnico come Passer e Grilli. Una faglia Filomonti che viene firmata da 29 senatori. Un movimento nuovo, liberal-democratico, ma non ancora con il terzo polo di Casini. Intanto l'UDC sarebbe in scioglimento per creare il nuovo partito della nazione Confini e Rutelli e anche lo stesso Bersani, segretario PD, ammette che l'attuale patto di maggioranza è senza futuro. Sul fronte Lega invece Roberto Calderoli sostiene di aver avuto molta solidarietà da tutti e che nessuno è riuscito a spezzare l'unità del Roccio. Per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Adesso le nuove accuse al presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni. Un capodanno ai Caraibi, in uno dei resort più lussuosi al mondo, l'alta mer di Anguilla, alle Antille, un villaggio turistico da 80.000 euro a settimana. Ci sarebbe anche questo fra i regali ricevuti dal governatore della Lombardia, Formigoni, da Pierangelo Daccò, il mediatore arrestato per le inchieste sui fondi neri del San Raffaele e per quelli della Fondazione Maugeri. Gli inquirenti stanno passando al setaccio le sue spese di rappresentanza, cene da migliaia di euro, biglietti aerei e vacanze in Sardegna e Svizzera, di cui avrebbero beneficiato anche altri dirigenti della sanità lombarda. Secondo l'accusa, Daccò avrebbe incassato contratti milionari da società e aziende che lo pagavano per gli agganci che riusciva a procurare loro in regione e che si rivelavano utili per sbloccare cospicui finanziamenti. Una circostanza questa che ieri sarebbe stata confermata nel suo interrogatorio davanti al GIP di Milano anche da Umberto Maugeri, l'ex presidente della fondazione finita al centro delle indagini. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Silvio Berlusconi è presente in aula in tribunale a Milano per l'udienza del processo Ruby, dove è imputato di concussione e prostituzione minorile. Domani testimonierà il funzionario di polizia Piero Ostuni, che la notte tra il 27 e il 28 maggio del 2010 ricevette la telefonata dell'allora premier che sollecitava l'affidamento della minorenne marocchina Karima El Marug al consigliere regionale della Lombardia Nicole Minetti. Oggi ha testimoniato un altro funzionario di polizia, Giorgia Iafrate, secondo cui era chiaro fin dall'inizio che la giovane non era la nipote del presidente egiziano Mubarak, così come ha affermato De Berlusconi. Fu Ruby a dirmi di non essere la nipote di Mubarak, ma che a volte si spacciava come tale, ha dichiarato la Iafrate. Il 15 ottobre scorso furono protagonisti di violenti scontri a Roma nel corso del corteo degli indignati. Oggi sono stati arrestati. In particolare in questo servizio. Cambiamo argomento. Cambiamo argomento. Il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, tra poco sentiremo il servizio di cui, che abbiamo lanciato. Ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri è intervenuta sul caso dei due algerini rimpatriati ai quali era stata tappata la bocca con un pezzo di scotch da pacchi. La Cancellieri ha parlato oggi in una informativa alla Camera. Ciò che è apparso invece del tutto estemporaneo nel caso di specie è l'impiego di nastro adesivo utilizzato dal personale di polizia nel tentativo di fissare le mascherine ed evitare che i due cittadini algerini, come più volte avevano provato a fare, potessero in qualunque modo rimuoverle. Peraltro tale comportamento si collega verosimilmente a pregresse recenti negative esperienze nelle quali gli operatori di polizia hanno subito gravi lesioni personali e perfino in un caso l'asportazione violenta di un lobo auricolare. Tuttavia l'impiego del nastro adesivo, sia pur accompagnato da rudimentali accorgimenti per assicurare la respirazione e dettato dalla comprensibile concitazione del momento, non appare corrispondere a nessuna delle misure coercitive previste e nei fatti si traduce in un comportamento che la coscienza collettiva percepisce come offensivo alla dignità della persona. E come vi abbiamo annunciato, adesso vi facciamo sentire il servizio sugli arresti eseguiti oggi relativi alla protesta, agli scontri del 15 ottobre scorso a Roma. Le accuse sono di devastazione, saccheggio e resistenza pluriaggravata a pubblico ufficiale. 14 perquisizioni, 7 arresti domiciliari, 6 obblighi di dimora. È il risultato del blitz delle forze dell'ordine scattato questa mattina in contemporanea a Roma, Teramo, Ancona, Civitanova, Marche, Padova e Cosenza. 6 mesi di indagini per identificare quanti il 15 ottobre avevano devastato banche, negozi, gli uffici del Ministero della Difesa e incendiato macchine, cassonetti e un blindato dei carabinieri. Si tratta di soggetti appartenenti all'area antagonista ed anarchica. Fra gli arrestati, Davide Rosci, primo dei non eletti a Teramo per Rifondazione Comunista, e due tifosi romanisti dell'offensiva ultra. Le immagini li ritraggono mentre attaccano il blindato in Piazza San Giovanni con una trave ed un martello e poi gli danno fuoco. Il procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo, responsabile del pool antiterrorismo. È un ulteriore momento di questa complessiva indagine che costituisce anche un elemento storico, perché quello che è avvenuto a Roma il 15 ottobre appunto non possa più ripetersi nel nostro paese. Seconda parte di GR24, queste le notizie principali, i nostri titoli di nuovo sopra i 400 punti, lo spread, borse in altalena, l'accordo Eni-Enel sul gas spinge Milano che sale dello 0,5%. Manifestazione della CGIL a Roma, la Camusso annuncia lo sciopero generale, disagi in alcune città per lo sciopero nel trasporto locale. Schifani chiede ai partiti una riduzione dei finanziamenti pubblici e sulla legge elettorale dice siamo in attesa ma ancora non ci sono proposte. Berlusconi in aula a Milano per il processo Ruby e oggi ci sono stati arresti e perquisizioni per gli scontri del 15 ottobre a Roma. Bene, come annunciato poco fa, adesso andiamo in Francia per parlare delle elezioni imminenti. Il corrispondente del Sole 24 Ore a Parigi, Marco Mussanè. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi. Allora, quali sono gli ultimi sondaggi? Abbiamo letto addirittura che c'è un record per le giocate, per le scommesse dei bookmaker. Insomma, qual è la situazione? In realtà, stando ai sondaggi, c'è poco da scommettere, nel senso che la partita sembra apparentemente giocata e a vincere dovrebbe essere il candidato socialista François Hollande. Tutti gli ultimi sondaggi realizzati dall'inizio di questa settimana, tra lunedì e oggi, ricordiamo che a partire da mezzanotte poi scatterà il silenzio preelettorale, quindi da mezzanotte di questa sera non sarà più possibile diffondere dati sui sondaggi. Io, tutti i sondaggi realizzati questa settimana sono concordi nel ritenere che il candidato socialista è nettamente avanti rispetto al presidente uscente Nicolas Sarkozy. Si aggiunge a questo il fatto che Hollande può sicuramente contare su un trasferimento di voti dei partiti minori in vista del secondo turno del 6 maggio, più importante rispetto a quello di Sarkozy, per il presidente uscente diventa veramente una sfida quasi impossibile. Marco, ricordiamo che si tratta del primo turno e poi ci sarà è molto probabile che ci sia il ballottaggio, se sì, si possono spostare molto i voti? Appunto, bisogna vedere, cioè, è chiaro che bisogna fare un ragionamento più che sui due candidati, sui due schieramenti. In questo momento la sinistra può contare su un 46% di voti al primo turno, ovviamente stando sempre ai sondaggi. Il centrodestra, la destra, diciamo moderata, intorno al 30%, 29-30%, e l'estrema destra, che comunque voterà in misura marginale per Sarkozy, intorno al 14-15%. Quindi è chiaro che il serbatoio di voti che ha la sinistra al primo turno è molto consistente rispetto a quello su cui può contare la destra. Bene, grazie a Marco Mussonè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi. Buon lavoro. Adesso parliamo dei permessi di paternità. Era l'agosto del 2010. David Cameron, da maggio primo ministro britannico, stupiva una parte del mondo annunciando che per la nascita di sua figlia si sarebbe preso 2 settimane di congedo di paternità. Ora Sigmar Gabriel, leader della SPD, il partito socialista tedesco, il quale se vincerà la concorrenza interna correrà per diventare cancelliere alle elezioni dell'anno prossimo, fa sapere che si prenderà addirittura 3 mesi. Un chiaro segnale è un segnale politico in un paese nel quale, a differenza di quel che si potrebbe pensare, l'istituto non è ancora molto diffuso. Marie, la figlia, è nata il 10 aprile. La compagna anche è una libera professionista. Fa la dentista e vuole riaprire il suo studio il prima possibile. Dunque sarà lui a gestire la bambina fino all'autunno, quando la piccola potrà andare al nido. Riuscirà a conciliare tutto questo con la sua posizione politica? Tutte le posizioni di vertice minacciano di divorare la vita privata, ha risposto, con o senza figli, dove la conclusione sembra essere meglio che non lo facciano. Come non essere d'accordo? Simone Spezia, Radio 24, il Sole 24 Ore. Adesso c'è lo sport, Formula 1 in Bahrain e il calcio, sono i due temi del weekend, calcio non solo italiano. Saluto Carlo Genta, ciao Carlo. Ciao Enrico, buongiorno a tutti. Formula 1 per cominciare, visto che è cronaca, si corre in Bahrain, prima tornata di prove libere, niente di nuovissimo perché Lewis Hamilton continua ad essere il più veloce di tutti, però attenzione perché c'è Vettel che non è partito benissimo in questa stagione, che ha avuto il secondo tempo, terzo il sorprendente di resta su Force India, poi Rosberg vincitore dell'ultima corsa e Button sull'altra McLaren, male come al solito viene da dire alle Ferrari perché Alonso 13° e Massa 15°. Gran Premio del Bahrain che si corre domenica nella mattina italiana, ma domani è un grande giorno di calcio perché, beh, per quanto riguarda la Serie A ci sono 4 anticipi che sono Chievo-Udinese, Parma-Cagliari, Catania-Atalanta, Napoli-Novara, ma soprattutto domani sera c'è la partita più attesa del mondo, cioè il Super Classico Barcellona-Real Madrid di campionato. Si gioca alle 20 con il Real Madrid che difende 4 punti di vantaggio sui Blaugrana. Entrambe le squadre reduci da una difficile settimana di Champions League. Ma ci sono, come sappiamo, novità che riguardano anche un prato di San Siro sul quale dalla prossima stagione, forse finalmente dopo anni di polemiche, si giocherà in modo diverso. Sentiamo. Come scrive la Gazzetta dello Sport, è quasi fatta. Il prato di San Siro, dopo anni di polemiche, discussioni, milioni spesi e gambe rotte, diventa sintetico, che poi vuol dire un mix di erba artificiale e naturale. Comunque una rivoluzione, visto che in Italia gli unici campi sintetici sono quello di Novara e di Cesena, sempre di Serie A ma non di rilievo europeo come quello di San Siro, che il Barcellona, dopo la partita col Milan, definì un campo di patate. Quella fu la goccia, anzi la zolla, che fece traboccare il vaso. La faccia stupita di Messi a gambe all'aria è un ferma immagine emblematico, o rigore fallito da Pazzini o l'ennesimo infortunio di Pato. Entro fine aprile la società che gestisce la struttura per conto di Inter e Milan assegnerà l'appalto per concludere i lavori entro agosto, quando si giocherà il trofeo Berlusconi. Le italiane Limonta, Dest e Eurogreen sono le ditte in pole position. Il via ai lavori è fissato per il 15 giugno. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Radio 24 Day. Adesso o mai più, le emergenze di un paese sommerso. Un Radio Day che chiude una settimana di appuntamenti quotidiani con la rubrica appunto Adesso mai più, le emergenze del paese sommerso. Poco tempo e una missione quasi impossibile: scardinare i costi di decenni di illegalità, perché ora con un'economia in crisi questi costi non sono più sostenibili dall'Italia. Lancia questo allarme un magistrato di lungo corso come Roberto Scarpinato, procuratore generale di Caltanissetta. E con questa sua analisi va appunto avanti il nostro Radio Day, l'intervista è di Raffaella Calandra. Il paese rischia di impiccarsi con la corda dei suoi vizi storici, così come è successo alla Grecia. La posta in gioco non è mandare in galera qualche centinaio di corrotti in più. La posta in gioco è il destino di questo paese. In mancanza di risorse bruciate dall'illegalità di massa, in mancanza di un libero mercato, una libera concorrenza, perché il mercato è balcanizzato, una serie di mercati irregolati, questo paese è inevitabilmente su un piano inclinato. Diciamo che l'Italia è l'ultima chiamata questa. Io credo che ci sia un corridoio temporale molto stretto, che è questo. Dopo l'adesione dell'Italia al trattato di Maastricht non è più possibile la svalutazione competitiva, quindi non è più possibile fare ricorso all'inflazione. E a questo punto come si fa per compensare il costo di 60 miliardi annui di corruzione, per far fronte a 120 miliardi in meno di introiti fiscali a causa dell'evasione? Non potendo tagliare i costi della illegalità, si è deciso di tagliare i costi dello Stato sociale, e quindi minore fondi per la ricerca, per l'università, per la scuola, per la sanità, per le pensioni, con un costo però che è altissimo. Se il ceto medio consuma di meno, gli ordinativi delle imprese diminuiscono, e la fiscalità generale che deriva dagli ordinativi delle imprese diminuisce, si instaura una spirale recessiva che è quella che ha portato la Grecia al disastro. Chiudiamo questa edizione di GR24 con alcuni aggiornamenti. Spaccatura tra i sindacati, la Camusso annuncia lo sciopero generale. Bonanni ha risposto poco fa ai giornalisti dicendo: i problemi sono molti e non si può fare uno sciopero generale al giorno. Abbiamo detto che Silvio Berlusconi è in aula per il processo Ruby a Milano. In una pausa del processo ha detto: sono venuto qui a vedere questa sceneggiata, una grande operazione mediatica di diffamazione nei miei confronti. Un altro aggiornamento e così chiudiamo questa edizione. Ve lo abbiamo ricordato all'inizio del GR: è stato arrestato dalla polizia il pirata della strada che ieri ha travolto a Roma un ragazzino di 12 anni che ora è in gravissime condizioni. È tutto, grazie a Roberto Scaltritti in regia. Al microfono Enrico Paglierini, GR24 torna alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.